GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Trieste la decisione di un giudice fa esultare i lavoratori della Varzila. A Gorizia una sentenza del tribunale fa esultare invece gli industriali siderurgici che potranno tornare a utilizzare a pieno Porto Nogaro. Il primo provvedimento, il magistrato ha revocato il licenziamento di 451 lavoratori dell'azienda finlandese che a Bagnoli della Rosandra produce motori. Ora il gruppo scandinavo dovrà valutare se sedersi al tavolo e rivedere la sua decisione o portare avanti l'intenzione di chiudere la produzione. La seconda decisione della magistratura ha riconosciuto la legittimità del dragaggio urgente ordinato dalla regione del canale di Porto Nogaro, assolti con formula ampia i dirigenti e i funzionari che avevano firmato gli atti, disposto il dissequestro del tratto del canale. L'emergenza climatica e i Fridays for Future tornano a mobilitare i giovani, ma fino a un certo punto. E il climatologo Filippo Giorgi al nostro microfono dice: serve maggiore attenzione da parte di istituzioni e opinione pubblica, come già avviene in altri paesi. La Caritas e la lotta ai luoghi comuni sull'immigrazione. Dalla rotta balcanica a Trieste, rifugiati, verità e falsi miti, il titolo di un incontro promosso al seminario vescovile. Falsi miti che si sconfiggono con i dati della realtà, dalle attività lavorative avviate agli esempi di integrazione. A Monfalcone è il fine settimana di Promomare, la fiera che offre un'ampia panoramica degli sport acquatici, ma punta anche ai riflettori su un mestiere nobile nel settore della cantieristica, quello dei maestri d'ascia. Calcio, oggi in campo la Serie C, alle 14.30 a Lignano Pordenone Padova, sfida fra la prima e la seconda in classifica, alla stessa ora Trento Triestina. Basket, APU Old Wild West Udine sconfitta da San Severo ieri sera nella Supercoppa di Lega 2 in corso a Forlì, 71-69. Canoa, tre ragazze d'oro, ai mondiali assoluti in corso nella Repubblica Ceca, Samantha Premerl e Maria Elena Zerboni della Saturnia Trieste arrivano prime nei due senza pesi leggeri. Ilaria Corazza della Timavo Monfalcone vince nel 4 di coppia pesi leggeri. Sabato 24 settembre 2022, sono le 7:20 minuti e 30 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. Vediamo subito come la situazione meteorologica. Il cielo è da sereno a variabile sulla regione ed ecco le temperature registrate alle 7. A Trieste 15 gradi, il mare è quasi calmo, ha una temperatura di 22 gradi e mezzo. A Udine, a Pordenone 14 gradi, a Gorizia 12, Tolmezzo 13, Forni di Sopra 9, Piancavallo 7 gradi e 5, Sappada 7, Tarvisio 5 e 5, sul Monte Zoncolan 3 gradi, sul Monte Lussari 3 gradi, a Lignano 16 e mezzo, a Grado 17, la temperatura del mare è di 21 gradi. Le previsioni. Al mattino cielo variabile con più sole sulle Alpi, in quota e sulla costa. In giornata aumento della nuvolosità con qualche debole pioggia sparsa, più probabile sulle prealpi. In serata peggioramento con piogge diffuse in genere moderate o localmente abbondanti. Sulla costa soffierà vento da sud moderato in rinforzo dalla sera. Le sentirete nel servizio che sta per andare in onda. Le sirene di Varzila ieri hanno suonato per festeggiare la vittoria del primo round davanti al giudice del lavoro. Se l'azienda finlandese vuole andare avanti sulla strada della chiusura della produzione, dovrà rifare tutto da capo e con le nuove regole che allungano l'iter del procedimento e stabiliscono penali salate oltre alla restituzione dei fondi pubblici ricevuti. Hanno festeggiato così, a sirene spiegate, come si fa quando un collega va in pensione. La notizia della sentenza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, che ha revocato il licenziamento dei 451 dipendenti dello stabilimento Varzila di Bagnoli della Rosandra, ha superato anche le più rosee aspettative dei lavoratori. Siamo contenti per adesso non siamo licenziati più, per adesso aspettiamo un contrattacco e vedremo. Da quando è stato dato l'annuncio, il 14 luglio, io insieme a molti altri colleghi facciamo fatica a dormire la notte e adesso ricominciamo a respirare. Ci sono tanti, diciamo tra virgolette, giovani lavoratori con mutui e figli da mandare avanti che ad oggi erano praticamente sul baratro. Ora si ricomincia da zero. Se Varzila vorrà davvero lasciare l'Italia, dovrà coinvolgere nel processo anche i sindacati e sottostare alla nuova normativa sulla delocalizzazione, modificata da un emendamento pochi giorni fa che rende l'iter più lungo e più oneroso sul piano economico. Marco Relli, FIOM CGIL. È stato oggi, ovviamente, dichiarato che l'azienda si è comportata in maniera scorretta. Il futuro? Ma il futuro è molto semplice. Trieste deve continuare a produrre i motori. Con o senza Varzila, non ha importanza. Ottimismo anche da parte di Confindustria Alto Adriatico. Non è una vittoria definitiva, ma un passo per guardare avanti e dare un futuro a un impianto che funziona e deve continuare a esistere per la filiera, ha detto il presidente Michelangelo Agrusti. Varzila è stata condannata anche al versamento di 50.000 euro a ciascuna delle sigle sindacali per danno d'immagine, oltre al pagamento delle spese processuali. Il giudice ha invece dichiarato inammissibile l'intervento della Regione Friuli Venezia Giulia. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un processo lungo 3 anni e per 3 anni il sequestro del canale industriale di Porto Nogaro con il conseguente stop ai dragaggi. Lo scalo consente al sistema industriale friulano, acciaierie comprese, di ricevere le materie prime e di spedire i prodotti finiti. Il Tribunale di Gorizia ha disposto l'immediato dissequestro del canale industriale di Porto Nogaro, un tratto di circa 1,5 km che dal 2019 era oggetto di un provvedimento della magistratura. Si chiude con l'assoluzione piena di tutte le funzionarie regionali coinvolte una vicenda processuale lunga 3 anni che di fatto aveva bloccato i lavori di dragaggio dei fondali. Soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina era sorta da parte dei laminatoi dell'area la necessità di approvvigionarsi di brame d'acciaio da paesi più lontani, con navi più grosse, e quindi l'importanza di incrementare la profondità dei fondali. Nel febbraio 2019, dopo una mareggiata, si era incagliata una nave uscendo dall'asse di navigazione. La capitaneria di porto competente aveva emesso un'ordinanza che riduceva i fondali da 6,20 a 5,50, limite che ancora oggi resiste. L'intervento di rimozione dei banchi di sabbia formatisi dove si era incagliato il mercantile per il ripristino del fondale è stato effettuato con urgenza dalla regione, ma interrotto dalla magistratura. Era intervenuta contestando un'interpretazione normativa sullo spostamento dei sedimenti che avevano elementi inquinanti come il mercurio. La sentenza ora assolve le funzionarie della Direzione Infrastrutture, ARPA e Capitaneria di Porto perché il fatto non sussiste, l'intervento era legittimo. Grande soddisfazione espressa dalla Regione anche nell'ottica di un possibile investimento Metinvest Danieli per un nuovo polo siderurgico proprio alla foce del canale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ieri era il giorno dello sciopero contro i cambiamenti climatici. In piazza sono scesi soprattutto i giovani, ragazzi delle scuole, studenti universitari, ma anche docenti e persone più sensibili alla questione climatica. 3 le città in Friuli Venezia Giulia che hanno ospitato i cortei: Gorizia, Udine e Trieste. Qui, oltre alla manifestazione, i ragazzi dei Fridays for Future hanno organizzato nel pomeriggio dei dibattiti aperti alla cittadinanza sui temi ambientali. Il primo è stato tenuto da Filippo Giorgi, climatologo e premio Nobel per la pace. Lo abbiamo intervistato. Sembra quasi che l'estate non ci abbia dato tregua tra la marmolada che è venuta giù, le alluvioni, le Marche, il Pakistan. Abbiamo visto anche nel nostro Carso cos'è successo. E come spiegare tutto questo se non con il cambiamento climatico? Ma diciamo che quest'anno è un po' un assaggio di quello che ci aspettiamo, perché abbiamo avuto una siccità che non è stata una siccità, è stata la peggiore siccità negli ultimi 500 anni. Abbiamo visto che cosa è successo nelle Marche, marmolada, Leggio, e queste cose purtroppo, se non si fa qualcosa per arginare il problema, continueranno e saranno sempre più gravi. E oggi abbiamo in realtà le tecnologie per fare questa cosiddetta riconversione ecologica. Purtroppo c'è sempre una crisi, poi un'altra crisi, e quindi si rimanda sempre. Per esempio il Portogallo hanno preso una decisione politica di passare entro il 2030 completamente a rinnovabili, e già oggi la maggior parte dell'energia viene prodotta in quel modo lì. Lo stesso sta accadendo in Spagna, se possono farlo portare la Spagna può farlo anche l'Italia. Purtroppo l'ambiente non è mai nelle agende politiche, se ne parla pochissimo, anche purtroppo in questa campagna elettorale, quindi finché non cambia un po' la cultura che abbiamo noi verso le tematiche ambientali, penso che ci saranno sempre più problemi. E c'è più sensibilità negli ultimi anni, eppure la piazza non è così piena come dovrebbe. Già lo scorso marzo c'era molta più gente, lei come lo giustifica? Ma Trieste è una città un po' sonnolenta per queste cose. E io sono stato in altre piazze dove c'erano decine di migliaia di persone, di ragazze soprattutto. È un po' un peccato perché fra incendi la città è stata allagata, tra l'altro anche io personalmente ho avuto danni da questa alluvione, quindi dovremmo cominciare a preoccuparci di più. Da Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito di Trieste Next, l'agroeconomista Andrea Segre presenta il suo nuovo saggio Diritto al cibo, la mia playlist dallo spreco alla cittadinanza alimentare, che mette a fuoco il tema dello jus cibi, il diritto a un cibo sano e sostenibile, per cui il cibo deve essere considerato un bene comune al pari dell'acqua. Appuntamento in Piazza Unità alle 10. E ieri a Next la presentazione dei test predisposti dai ricercatori della SISSA per verificare la predisposizione ad Alzheimer e Parkinson. Diagnosticare malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson quando i sintomi sono manifesti significa arrivare tardi perché la patologia è già in atto sotterraneamente da almeno 20 anni. È proprio in questa finestra temporale che si sono concentrate le ricerche della SISSA di Trieste. Obiettivo: capire se esiste una predisposizione alla malattia prima del suo sviluppo conclamato. Studi questi che vedono il sistema scientifico triestino in prima linea, come ribadito in un incontro di Trieste Next. Giuseppe Legname, docente di biochimica alla SISSA. Noi già da diversi anni abbiamo sviluppato un test molto molto sensibile che utilizza i neuroni olfattivi, che sono praticamente la porta di entrata del nostro cervello con l'ambiente, e riusciamo a identificare se sono in atto processi degenerativi e specificare anche quali, cioè se Alzheimer, se Parkinson, se SLA, eccetera eccetera. E questa è una cosa che abbiamo fatto anche prima di quando il Covid ha introdotto, diciamo, questa tecnica di prendere componenti della nostra volta nasale. E funziona molto bene. Ma nella seconda giornata di Trieste Next si è parlato anche di idrogeno, definito un acceleratore della transizione energetica. Rodolfo Taccani, docente di ingegneria meccanica dell'Università di Trieste. L'idrogeno, proprio perché può essere prodotto da fonti rinnovabili, può essere un veicolo per accelerare questa transizione, anche perché fra l'altro consente di immagazzinare grandi quantità di energia a differenza delle batterie. Certamente può essere pericoloso, però come possono essere pericolosi tutti i gas infiammabili. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Al via la terza edizione del Festival sullo sviluppo sostenibile Non siamo Atlantide, tasselli di sostenibilità, che si svolge oggi e domani ad Aquileia in Piazza Patriarcato. Tra gli interventi in programma oggi alle 13, quello di Tatiana Espinosa, ingegnere ambientale che arriva dalla regione della foresta amazzonica pluviale per una testimonianza degli effetti del cambiamento climatico in quelle zone. Alle 10 al Seminario Vescovile di Trieste si terrà l'incontro Dalla rotta balcanica a Trieste, rifugiati, verità e falsi miti, promosso dal Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e dalla Diocesi di Trieste. Fra i partecipanti Chiara Cardoletti, rappresentante dell'UNHCR. Abbiamo chiesto a Don Alessandro Amodeo, direttore della Caritas, di spiegarci perché il titolo dell'incontro faccia riferimento ai falsi miti e ai luoghi comuni sui rifugiati. Il titolo deriva da un testo di un'autrice che appunto ha proposto un'analisi sulla situazione dei rifugiati con dati, analisi e delle storie anche autentiche raccolte proprio per sfatare quelli che sono i luoghi comuni sui rifugiati. Noi di Caritas Trieste da sempre ci impegniamo al fenomeno delle migrazioni. È presente da una decina d'anni, noi da subito abbiamo iniziato a lavorare facendo molta collaborazione, molto impegno sul territorio. Certo, siamo una Caritas piccola, ma siamo la Caritas che è alla porta d'entrata d'Italia, sia dalla rotta balcanica che da tutti i paesi dell'est. Di fronte a questi luoghi comuni di cui parlava, qual è la risposta migliore? La risposta migliore è la realtà. Penso alla realtà che viviamo qui a Trieste, dove le persone sono integrate, molte persone hanno avviato attività lavorative, molti imprenditori hanno avviato borse lavoro o inserimenti lavorativi. Quindi davanti ad una serie di quei luoghi comuni, uno per tutti, non hanno voglia di lavorare, non fanno niente, sono lì senza far niente, così, ecco, tutto questo non rispecchia affatto la realtà, perché c'è tanto impegno e non dobbiamo neanche dimenticare che comunque è un'economia che si riversa sul territorio e quindi porta una costruzione della società, una società certamente multietnica, come peraltro Trieste lo è sempre stato. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Ha preso il via con la pubblicazione di un blog la campagna di comunicazione e informazione dell'azienda regionale per il coordinamento della salute per sostenere l'adesione della popolazione ai programmi per la diagnosi precoce di alcuni fra i tumori più diffusi. Il blog è già accessibile digitando direttamente l'indirizzo prevenzione.arcs.it oppure attraverso la home page del sito dell'ARCS, azienda regionale per il coordinamento della salute, alla voce prevenzione. Vuole essere uno strumento di approfondimento, ma anche il modo più semplice per trovare informazioni e una linea diretta con chi può dare risposte sulla prevenzione oncologica, un'iniziativa promossa nell'ambito della campagna Io ci sono, per rilanciare e sostenere anche sui più immediati canali digitali l'importanza della prevenzione e l'adesione ai programmi per la diagnosi precoce di alcuni fra i tumori più diffusi dopo i 2 anni di stop forzato per il Covid. Prima della pandemia il Friuli Venezia Giulia risultava la 3ª regione in Italia per numero di adesioni ai controlli biennali, numeri che con la campagna informativa ARCS punta ora ad aumentare, sempre facendo leva sul presupposto oramai consolidato che la diagnosi precoce, accanto a una scelta di vita sana ed equilibrata, è lo strumento più efficace per combattere il cancro, con ricadute sulla possibilità di sopravvivenza e di una migliore qualità della vita di chi ne è colpito. 3. Gli screening oncologici gratuiti rivolti alla popolazione residente, attivi in regione e ripartiti da inizio anno, per la diagnosi precoce del tumore mammario, del collo dell'utero e colon retto. Le risposte sul perché aderirvi da oggi si possono trovare anche nel blog, che in futuro conta di diventare riferimento sulla prevenzione in genere. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. La campagna nazionale di sensibilizzazione sulla cheratosi attinica, segnali sulla pelle, con visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione, fa tappa all'azienda ospedaliera universitaria di Trieste. La campagna ha l'obiettivo di promuovere la diagnosi precoce per questa malattia precancerosa che si manifesta dopo i 40 anni e che ha tra i fattori di rischio l'esposizione solare. Si tratta di una delle lesioni dermatologiche più frequenti. Si stima che circa il 30% degli over 70 anni presenti almeno una cheratosi attinica. Se le lesioni non vengono trattate, possono evolvere in un carcinoma invasivo. Le visite si svolgeranno presso la clinica dermatologica dell'azienda ospedaliera di Trieste. Crescere attraverso l'aiuto, l'importanza del volontariato nella quotidianità dei più giovani, è il titolo dell'appuntamento organizzato dall'Associazione Bambini Chirurgici del Burlo in occasione di Trieste Next, alle 10 a Palazzo Gopcevic di Trieste. A Udine, in occasione della 18ª giornata dell'Associazione per il Bambino in Ospedale Abio, volontari dell'organizzazione saranno presenti in via Mercato Vecchio dalle 10 alle 19. Un job day per incontrare, selezionare e assumere nuovo personale per la catena di supermercati Despar, che prevede nuove aperture e punti vendita in Friuli Venezia Giulia. Si terrà a Udine dalle 10 alle 18 all'Eurospar di piazzale Rita Levi Montalcini. Si cercano profili con esperienza nel settore, ma anche persone che vogliono intraprendere un nuovo percorso professionale. Macellai, addetti ai reparti freschi, gastronomi, cassieri, autisti. Vengono offerti contratti part-time o full-time, sia a tempo determinato che indeterminato. Il giornalista Nello Scavo, inviato del quotidiano Avvenire in Ucraina, presenterà a Trieste il suo ultimo libro, Kiev, diario di una guerra nel cuore dell'Europa. L'appuntamento alle 18.30 nel teatro della parrocchia Madonna del Mare. Una guerra, quella ucraina, dove i civili continuano a soffrire, spesso lontano dai riflettori. I civili stanno soffrendo ancora, continuano, tra l'altro abbiamo ricevuto conferme ufficiali dalla Commissione indipendente delle Nazioni Unite per i diritti umani che ha verificato e riscontrato numerosi crimini di guerra sui civili con abusi e stupri in una fascia d'età che vanno dai 4 anni agli 82 anni, quindi una condizione perfino peggiore di quanto non si fosse raccontato fino a questo momento. Noi abbiamo documentato come giornalisti almeno 17 bucia, cioè casi di abusi di massa e crimini e stragi contro la popolazione civile inerme. Secondo le Nazioni Unite ci sono le prove per 16 centri, altre stanno emergendo e proprio in queste ore continuano i bombardamenti soprattutto nel sud verso Odessa e Mykolaiv con i droni kamikaze, ancora una volta contro obiettivi civili. Dopo le ultime decisioni di Putin sulla mobilitazione dei riservisti e dopo il referendum a Donetsk e Lugansk, verso quali scenari, verso quale fase andiamo? È molto difficile fare previsioni e non è neanche il mio mestiere, non mi cimento, però quello che possiamo dire dalle reazioni, i racconti che abbiamo raccolto sul campo e quelli che continuano ad arrivarci, ci si prepara un inverno difficilissimo con molti blackout elettrici, problemi di riscaldamento, arriveranno fortissime le nevicate come ogni anno, l'Ucraina proverà a intensificare la riconquista dei territori, il timore è per una reazione sporca da parte del Cremlino, sporca intendo l'uso di un'arma tattica che possa cambiare il volto di questo conflitto e probabilmente anche di un intero territorio. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. A Monfalcone il fine settimana è dedicato agli sport del mare e alla tradizione cantieristica dei maestri d'ascia. Fino a stasera la rassegna di Promo Mare offre anche momenti gastronomici con chef stellati che proporranno ovviamente piatti di pesce. Canottaggio, canoa, windsurf, kitesurf e subacquea, non solo vela a Promomare Monfalcone, ma una vera panoramica sugli sport acquatici. Barbara Camarotto, campionessa italiana 2 senza over 17. Per me il canottaggio è uno degli sport del mare più completi perché impegna gambe, braccia, busto e si può praticare sia da soli che in doppia, che in 4 e che in 8, quindi crea squadra. E c'è anche l'hydrofoil, l'ultima evoluzione del kitesurf. Gianfranco Crivellari del Kite Life Marina Giulia. La nuova frontiera dell'hydrofoil è sicuramente la tavola elettrica che ci permette di imparare al più presto cos'è la sensazione di volare sull'acqua con un semplice joystick. Eventi collaterali, allo Yacht Club Monfalcone c'è il 1001 Vela Cup, competizione tra le università italiane con imbarcazioni progettate, costruite e condotte dagli studenti, e poi la Foil Academy, porta d'ingresso verso il nuovo pianeta della vela, per i più piccoli workshop sui principi del galleggiamento e la distribuzione dei pesi, per i buon gustai invece show cooking con lo chef Nevio Lupi e gli studenti dell'ISIS Pertini indirizzo enogastronomico. E la storia del mare torna più attuale che mai con l'antica arte dei maestri d'ascia allo stand Alto Adriatico Custom, con esplorazione virtuale del mitico dragone in legno Galeb del Museo di Pirano, restaurato dal maestro Odilo Simonit. Noi, come cantiere Alto Adriatico, assieme al Comune di Monfalcone e al Polo Tecnologico, proporremo un corso online dove io, assieme ai miei collaboratori, spiegheremo il fascino di questa professione, come intraprenderla, come iniziare, il valore del restauro, le opportunità per chi vuole affrontare questo mestiere in questo momento ci sono. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Il calcio, ferme Serie A e Serie B, oggi gioca la Serie C, dunque in campo il Pordenone, in testa alla classifica a 10 punti, che a Lignano affronterà il Padova, secondo. La Triestina, sedicesima a 3 punti, ancora a digiuno di vittorie, giocherà a Trento. La scena se la prende la Serie C, ferme A e B per gli impegni delle nazionali, Pordenone e Padova arriva nel momento migliore per accendere l'interesse. Alla quinta giornata è già una sfida che mette in palio il primo posto del girone A. Allo stadio Teghil di Lignano i neroverdi ospiteranno 800 tifosi biancoscudati al seguito della squadra di Caneo, arrivato dalla Turris per centrare quella cadetteria sfuggita nelle finali play-off contro Alessandria e Palermo. Il Pordenone, in testa a quota 10 punti, sarebbe a punteggio pieno non fosse per la rete subita e contestata nel recupero con la Juventus Next Gen. Padova, che insegue in classifica a un punto nella squadra di Di Carlo, assenza importante quella di Aieti, impegnato con la nazionale albanese. Al suo posto Bassoli, al rientro dal problema muscolare, oppure Pirrello. Per la Triestina, dopo tre pareggi di fila, l'ultimo in casa con la Pro Vercelli, è una zona di classifica poco confortevole la gara in trasferta con il Trento, stadio Briamasco. Anche i gialloblu a tre punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte. Bonatti, tecnico degli alabardati, insegue il primo successo in campionato. Non avrà a disposizione Lombardi, ma dovrebbe recuperare Sarzi. Nelle Trento, squalificato il centrocampista Damian. In attacco, però, ci sarà Riccardo Bocalone, ex di Venezia e Pordenone. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket, in Supercoppa di Lega 2, prima sconfitta per l'APU Old Wild West Udine, ancora senza il nuovo acquisto Brisco. In finale ci va l'Allianz Pazienza San Severo, che ieri sera a Forlì ha vinto di misura la prima semifinale 71-69 contro i bianconeri e ora attende la vincente del match tra Cantù e Cremona. Primi due quarti spesi dai friulani a inseguire e conclusi sul punteggio di 35-29 per i pugliesi. Nel terzo periodo la squadra di Bonicioli arriva fino a meno 11 sul 51-40, prima della rimonta che in avvio di ultima frazione porta i bianconeri per la prima volta in vantaggio sul 53-51. L'equilibrio resiste fino all'ultimo minuto, quando Sabatino mette a segno due punti pesantissimi per San Severo a 7 secondi dall'ultima sirena, 71-68. Sherrill, il migliore dei friulani con 18 punti, fa 1-2 ai liberi e nel finale la squadra di Bonicioli fallisce l'aggancio. Mondiali di canottaggio a Račice in Repubblica Ceca. Le ragazze del Saturnia di Trieste, Samantha Premerl e Maria Elena Zerboni, hanno vinto l'oro nel campionato assoluto due senza pesi leggeri femminile, superando Stati Uniti e Germania. Le due atlete avevano già vinto quest'anno i mondiali Under 23 e gli europei. Anche la gradese Ilaria Corazza della Canottieri Timavo di Monfalcone ha vinto l'oro nel 4 di coppia pesi leggeri. Tappa conclusiva oggi e domani a Lignano Sabbiadoro del campionato italiano di skateboard, che si tiene allo skate park di Viale Europa. Oggi le qualifiche per tutte le categorie di gara: junior femmine e maschi 8-13 anni, senior femmine e maschi dai 14 anni in su e master femmine e maschi dai 35 anni in su. La prima vittoria, il titolo di prima pagina del Piccolo di Trieste, su una grande foto di lavoratori Varzila. Riconosciuta la condotta antisindacale, l'iter per i licenziamenti riparte da zero. Il giornale dedica a questo tema le pagine 2 e 3. Andiamo all'interno, all'apertura del fascicolo cittadino, dedicata al grido d'allarme dei cori amatoriali. Troppa burocrazia, così l'attività è a rischio. Il comune ha applicato una norma che prevede un piano di sicurezza obbligatorio per gli eventi in chiese e sale. L'Unione delle Società Corali Italiane dice difficoltà per un migliaio di volontari. Pagina successiva, un po' di ottimismo nell'articolo di Nicole Brusaferro, che dà conto dell'apertura di nuovi esercizi commerciali. Dalla gelateria alla salsamenteria, in centro la sfida al caro bollette delle nuove aperture. Fra gli imprenditori che hanno scelto di inaugurare fra settembre e ottobre, il timore dei costi c'è, ma prevale la fiducia. Paginone culturale. Paolo Marcolin intervista il professor Giovanni Fraziano, docente di architettura e urbanistica all'Università di Trieste, autore di un libro dedicato a Luciano Semerani, l'architetto triestino scomparso esattamente un anno fa. L'edizione di Udine del Messaggero Veneto apre sul decreto aiuti del governo. Ritocchi delle pensioni anticipati a ottobre, il 2% in più per 9 assegni su 10, rivalutazione piena a partire da gennaio 2023. In prima pagina, poi, spazio a due richiami. Udine, lampioni accesi un'ora in meno per risparmiare, notizia che apre anche le pagine della cronaca cittadina, e la riapertura della strada provinciale per Resia dopo due mesi di lavori. A pagina 19, un articolo sull'alluvione nelle Marche. In partenza domani dal Friuli, 80 volontari con 30 mezzi della Protezione Civile. Nella cronaca, infine, una notizia dall'Alto Friuli. Sì dall'azienda sanitaria ai sindaci sulla guardia medica. Da ottobre un numero unico. Voto, polemiche e appelli è il titolo principale del Gazzettino, dedicato alla chiusura della campagna elettorale. Il Dorso Udinese apre invece sul caro energia. Maxi bollette, capannoni al freddo. Diversi imprenditori hanno già avvertito i sindacati che per risparmiare non ci sarà riscaldamento in fabbrica. Al centro, spazio infine alla sanità. Arrivano i rinforzi per potenziare i medici di base. In regione ne mancano oltre 100. Roma istituisce 2.500 borse di studio. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo, nella parte alta della prima pagina, una foto della manifestazione per l'ambiente nel capoluogo. In 600 sfilano per il clima a Gorizia. La foto ritrae i giovani dietro ad un grande striscione con la scritta «Ci state bruciando il futuro». Il titolo più grande al centro della pagina ci porta a Monfalcone. Varchi e binari, ecco i nuovi asset di Porto Rosega. Allo scalo vanno 2 milioni per aumentare l'automazione. Il 2021 si è chiuso con un più 20% di treni movimentati. Andiamo all'interno, l'apertura del fascicolo goriziano. Degrado in centro, palazzina in abbandono in Corso Italia, in pieno centro, diventa rifugio dei topi. Denuncia ai vigili urbani, lo stabile è fatiscente e transennato. Gli inquilini dell'edificio accanto non ne possono più. Pericolo igienico-sanitario. Foliazione monfalconese, il lavoro nella nautica promomare, lancia i corsi per maestro d'ascia. Questo è il titolo d'apertura. In apertura dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, dopo il titolo sulle pensioni, due richiami dedicati alla cronaca, scontro frontale a Fontana Fredda, grave una donna, e alla sanità. Il DG dell'azienda sanitaria del Friuli Orientale, Tonutti, a inizio 2024 si entra nel nuovo ospedale. Su questa notizia si aprono anche le pagine della cronaca locale, che dedica poi spazio alla gestione dei rifiuti. Cumuli in città una cinquantina di verbali, tanti gli scarichi di materiale edile. Nelle pagine della cultura un articolo ricorda invece i 100 anni del Teatro Verdi, non più contenitore ma interlocutore culturale del territorio, dice il direttore Lessio. Anche le pagine pordenonesi del Gazzettino dedicano il primo titolo al taglio del riscaldamento nei capannoni per le maxi bollette, mentre al centro c'è spazio per la cronaca nera. Rubano Rolex da 20.000 euro, doppia condanna. La vittima è un imprenditore di 81 anni di Fontana Fredda, la sua Porsche seguita fino a casa. Aperture straordinarie, visite guidate nei musei di tutta la regione per le giornate europee del patrimonio, oggi e domani. A Trieste, visite guidate a Palazzo Economo, apertura del Teatro Romano dalle 17.30 alle 20.30 e dell'area archeologica della Basilica Paleocristiana in via Madonna del Mare dalle 9 alle 13. Alle 10 anche la Caccia alla Bora con partenza dal Museo della Bora e l'incontro Archivi Sostenibili. Alle 10 all'Archivio di Stato. Aduino Aurisina, apertura dell'area archeologica della Grotta del Mitreo, dalle 10 alle 12. Al Castello di Miramare, alle 20, il concerto con Federico Vallerga e Davide Calcagno dell'Accademia Flautistica di Genova, su musiche di Bach, Mozart, Verdi e Rossini. Ad Aquileia, visite con l'archeologo dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. A Cividale, alle 20.30, conferenza sul progetto Amate, che permetterà a ciechi e ipovedenti di fruire delle opere museali. A Gorizia, visite guidate alla Biblioteca Isontina. Alle 16, a Palazzo Attems, visita guidata alla mostra Riflessi, autoritratti nello specchio della storia, e passeggiata storica, con partenza da Piazza Vittoria alle 10. A Palmanova, visita guidata alle mura, con ritrovo dei partecipanti alle 9.30 presso Porta Udine. Inaugurazione ufficiale alle 17.30 della 51esima mostra regionale della mela di Pantianicco. Degustazioni, laboratori e convegni fino a domenica 2 ottobre, con l'esposizione delle migliori cassette di mele delle aziende friulane che, come ogni anno, saranno in gara con i propri prodotti. Dopo la cerimonia di inaugurazione, il convegno tecnico organizzato da ERSA sul tema dell'inquinamento delle acque dopo la pulizia dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Giorno di presentazione dei corsi di musica della Fondazione Luigi Bon, che a Colugna di Tavagnacco apre le sue porte dalle 15 alle 17 a bambini e ragazzi per far conoscere gli strumenti musicali dei quali durante l'anno si può approfondire lo studio. Prosegue il festival itinerante della conoscenza Dialoghi. Alle 18.30 a Villa Nachini di Corno di Rosazzo si terrà il concerto Canti d'amore nei tempi, con il gruppo corale Ars Musica di Gorizia, diretto dal maestro Lucio Rapaccioli e con la partecipazione di Giulio Chiandetti al liuto, chitarra e fisarmonica. Sarà inaugurata alle 18 a Palazzo Frisacco a Tolmezzo la mostra curata dalla Società Meteorologica Alpino Adriatica in collaborazione col Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Canin, memoria di climi antichi, un viaggio sugli effetti del riscaldamento globale, un viaggio nella natura e nella geologia del massiccio del Canin e sui cambiamenti causati dalla crisi climatica. Insieme alla mostra sul Canin verrà inaugurata anche l'esposizione curata dal Geoparco delle Alpi Carniche, Tesori della Terra, storie di uomini e miniere. Mostra di scooter d'epoca al centro commerciale Città Fiera. Oltre 50 esemplari dal dopoguerra ad oggi raccontano la storia dello scooterismo in Italia. La mostra resterà visitabile gratuitamente fino a domenica 23 ottobre. Oggi su Rai 3 andrà in onda il settimanale, la rubrica di approfondimento della TGR. Torna il settimanale estate in questa puntata. Nei paesi delle Marche, morti, fango, danni, rabbia e sconforto. Cosa resta dopo l'alluvione? Gli abitanti di Buddusò e cosa guadagnano dal parco eolico più grande d'Italia che li circonda? A Barile, la cooperativa nata in pandemia per la carenza di manodopera in agricoltura e che ora crea posti di lavoro in paese. In Africa, tra i ragazzi di strada recuperati dal CESVI di Bergamo. Un cavò come in banca per i sigari toscani più preziosi. Il golf, sport dove si sfidano normodotati e disabili, che punta alle Paralimpiadi. A Trieste, i 20 anni di Itz, rassegna internazionale per scoprire nuovi talenti della moda e del design. Oggi, nel settimanale estate, 12:25, Rai 3. Assistenza tecnica di Tommaso Vinoni e Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Cristina Polselli, Livia Liberatore ha partecipato alla redazione di questa edizione. Alle 7:53 minuti 55 secondi ci fermiamo, i prossimi appuntamenti con la nostra informazione su questa frequenza, l'edizione delle 12:30 del GR e poi alle 14 su Rai 3 il telegiornale. Grazie della cortese attenzione da Daniele Lettig e da Antonio Cagliazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.